Questa è una canzone sui gulag. Guardami come sono messo, guardami le mani, guardami i pensieri, li vedi così lontani. Sono un ragazzo senza colpe e vengo a chiederti un po' di sole per questo freddo che mi ghiaccia il cuore. Ma stasera ho sognato, mi venivi a salvare, senza madre, senza pane io vivevo. Guardami i pensieri, questa Siberia ci fa male, non ci fanno nemmeno cantare quando il sole può calare. E oggi commissario di cattivo umore, non lo si deve disturbare, forse è meglio continuare a lavorare. Niente paga settimanale, qui vince solo il più forte. Vivi, vivi per arrivare alla Marte. Nei recinti da guardare, solo ghiacciai da squagliare. Qui la notte, il freddo è un cane che ci ruba da mangiare quando ce lo vengono a portare. Se non li facciamo arrabbiare, e stasera morirò, il freddo mi ha spezzato, di che cosa ci hanno accusato? Dimmelo che non lo so, ma stasera sarò dalla storia dimenticato, un bambino inventato.